Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I carabinieri del ROS hanno arrestato 7 persone appartenenti a un'organizzazione con ramificazioni in Austria e Germania che in 2 anni ha introdotto almeno 140 migranti clandestini in Italia. Una vasta operazione di polizia con 300 agenti e l'ausilio di elicotteri ha effettuato controlli in 9 province italiane e ha incluso controlli alla ex Cavarzerani di Udine e al Silos di Trieste. A Trieste, chiesa gremita per l'ultimo saluto all'ex rettore Maurizio Fermeglia, colto da un malore durante un'escursione sul Monte Carso. Il presidente dell'ANPI Pagliarulo sarà oggi a Udine per presentare il suo libro sull'attualità dell'antifascismo e domani a Ruda alla commemorazione dei gappisti fucilati. Ai nostri microfoni parla delle manganellate agli studenti. Il problema, dice, è la linea di comando. Sabato sportivo impegnativo calcisticamente parlando, l'Udinese scende in campo alle 15 contro la Salernitana e non deve farsi sfuggire i 3 punti in Serie C a caccia di punti e di autostima, ritrovata anche la triestina Altonion contro Legnago. Nel basket in A2 l'APU gioca in trasferta ad Agrigento, mentre nel campionato femminile la Delser, carica dalla vittoria della settimana scorsa, ospita alle 19.45 le seconde in classifica. Nella pallavolo maschile in A2 Tinet Prata si gioca il sorpasso in classifica contro Ravenna. Buongiorno da Lara Zani e Nada Cioc. 2 operazioni distinte di contrasto all'immigrazione clandestina. I carabinieri del ROS di Udine hanno concluso l'indagine di 2 anni che ha messo a nudo un gruppo di passer iracheni e iraniani che dall'Austria aiutavano gli stranieri privi di documenti a entrare in Italia. E le perquisizioni, i controlli di aree più vaste, anche con l'ausilio di elicotteristi operata all'alba dalla polizia in 9 province di frontiera, ha riguardato in particolare il retrovalico di Trieste e di Gorizia, ma anche l'ex caserma Cavarzerani di Udine e un centro per minori stranieri e il Silos di Trieste. I dettagli nel servizio. 44 persone arrestate per stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 151 persone denunciate per reati vari, tante le persone identificate e gli stupefacenti sequestrati da parte della Polizia di Stato, 7 invece gli arresti di componenti di un sodalizio dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da parte dei carabinieri. Sono i numeri delle operazioni Alto Impatto e Ultimo Miglio fatta dalla Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dei carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Udine per il contrasto all'immigrazione clandestina. Oltre 300 gli operatori della Polizia di Stato impegnate sul territorio nelle province di Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine. Nelle zone del cosiddetto retrovalico, numerosi controlli nelle 3 province del Friuli Venezia Giulia, nei pressi della linea confinaria e lungo le principali direttrici di transito, nonché presso le strutture ricettive. Francesco Leo, capo squadra mobile di Udine. Sono stati effettuati dei controlli approfonditi in 2 strutture, dove trovano accoglienza i minori stranieri non accompagnati e all'ex caserma Cavarzerani, hub di accoglienza per gli stranieri maggiorenni. Nel complesso 779 le persone identificate, 6 le persone arrestate, 11 quelle denunciate all'autorità giudiziaria in stato di libertà. 7 persone arrestate a cui sono stati contestati complessivamente 30 episodi di trasporto di immigrati clandestini che hanno in parte coinvolto anche l'Italia. Invece l'operazione Ultimo Miglio dei carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Udine, che hanno concluso l'indagine in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, che ha operato in cooperazione giudiziaria con le omologhe autorità austriache e tedesche. Colonnello Enrico Ponzone, comandante Carabinieri Tarvisio. I carabinieri della compagnia di Tarvisio hanno ritracciato ben 123 migranti. L'attività di indagine è stata successivamente sviluppata a livello internazionale dai carabinieri del ROS di Udine. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada. È accaduto nella tarda serata di ieri, attorno a mezzanotte, a San Vito al Tagliamento. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il giovane ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato violentemente un ostacolo all'esterno della carreggiata. Dopo essere stato stabilizzato, il paziente è stato trasferito in codice rosso e in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le dimissioni di Zeno D'Agostino dalla carica di presidente dell'autorità portuale creano preoccupazione per il dopo. Tutti riconoscono il valore del lavoro di D'Agostino in questi 9 anni, a partire dagli operai. Il braccio alto delle gru gialle, le banchine senza navi, dimostrano che Trieste, come tutti i porti del Mediterraneo, soffre la crisi di Suez. Ma il traffico ro-ro, invece, viaggia a gonfie vele. Il nostro porto non è mai stato tanto sano, dicono lavoratori e sindacati accorsi sotto la torre dell'OID, quartier generale dell'autorità portuale, alla nostra richiesta di commentare la scelta del presidente Zeno D'Agostino di dimettersi prima della scadenza di mandato prevista a fine dicembre. Quando la voce ieri si è diffusa in porto tra i lavoratori, regnava incredulità, quasi senso d'abbandono. Zeno ha rappresentato la svolta per questo nostro posto di lavoro. Stabilizzazione, assunzioni, dignità di salario, ci dicono. Lo chiamano tutti con il nome di battesimo, Zeno. Nessuno, presidente, dottore o come si fa di solito utilizzando il cognome, ha messo al centro il lavoro ed è stata questa la sua rivoluzione, dice Paolo Peretti, Filt CGL. Ha fatto la differenza mettendo il porto e soprattutto il lavoro portuale al centro del suo piano di sviluppo, dei suoi pensieri. Perché tante assunzioni? Perché ha internalizzato tutta una serie di attività e ha messo la ferrovia al centro di una mobilità anche sostenibile, quindi implementando al massimo l'esistente, e tanto è vero che arriveranno anche dei fondi del PNR per lo sviluppo soprattutto ferroviario. Sul dopo D'Agostino qualche nome si sente? Credibile, non credibile? Ne abbiamo sentiti, ne abbiamo letti qualcuno, ma credo che la cosa verrà scelta nell'ambito del Ministero dei Trasporti, ecco. Si era parlato anche di un terzo mandato per D'Agostino, se effettivamente ci fosse stata questa riforma proprio delle nomine, secondo lei era auspicabile e possibile? Auspicabile? Io credo di sì. Possibile in relazione alla legge esistente? Credo di no. Però poi, visto i terzi mandati che vengono proposti per le figure politiche regionali, sulla cosa si era anche scherzato fra amici. Ecco, come e lui dire. Cosa diceva? Lui non è mai stato coinvolto in queste chiacchiere da bar, ma fra noi, fra le altre sigle sindacali, una cosa di questo genere l'avevamo in qualche modo chiacchierata. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste porge l'ultimo saluto all'ex rettore professore di ingegneria chimica Maurizio Fermeglia, morto per un malore durante un'escursione sul Monte Carso nella sua amata Val Rosandra. Nella chiesa di Nostra Signora di Sion non c'era spazio per tutti coloro che avrebbero voluto porgere l'ultimo omaggio a Fermeglia. In molti hanno quindi assistito alla messa di Don Ettore Malnati all'esterno della chiesa. Ai funerali hanno partecipato il sindaco di Trieste Di Piazza e quello di Udine Dettoni, che da ex rettore bene conosceva il collega, nutrita anche la presenza del mondo accademico triestino guidato dal rettore Di Lenarda. Quindi il corpo del soccorso alpino regionale, la cui riorganizzazione negli anni scorsi era partito proprio da Fermeglia, grande sportivo e uno dei rari accademici del CAI. Nel pomeriggio alle 15 a Bagnoli della Rosandra, nel paese dove Fermeglia risiedeva con la famiglia, un incontro pubblico per ricordarlo. 3.500 lavoratori pubblici in più negli ultimi 8 anni in Friuli Venezia Giulia, mentre l'ultimo anno ha fatto segnare un calo. E quanto emerge da un'indagine IRES su dati IMSS. Nel 2022 in regione si contavano 90.050 dipendenti pubblici, 337 in meno rispetto all'anno precedente. La diminuzione è dovuta principalmente all'andamento dei dipendenti a tempo determinato della scuola, dove nel biennio 2020-2021 erano state effettuate assunzioni straordinarie. Prosegue il calo del numero dei dipendenti delle amministrazioni centrali e locali, mentre sono cresciuti gli occupati nelle università e negli enti di ricerca. Nel settore pubblico si nota poi una tendenza all'aumento dei contratti a tempo determinato. Il Friuli Venezia Giulia è anche quarto in Italia per numero di dipendenti pubblici in rapporto alla popolazione, caratteristica delle regioni a statuto speciale. La retribuzione lorda media dei dipendenti pubblici nel 2022 in regione è stata pari a 34.550 euro, superiore di 11.000 euro rispetto al privato. In provincia di Trieste, quella più elevata. I monfalconesi tornano a riappropriarsi del centro storico, che è stato oggetto dell'ampia riqualificazione. Una serie di eventi e spettacoli scandiscono la giornata, tra questi anche la presentazione del progetto stesso. Ingegner Valkovic, com'è stato progettare una piazza nuova, un nuovo centro storico, cercando di conservare la sua identità? Dunque, l'obiettivo fondamentale era recuperare quelli che possono essere definiti i connotati fondamentali il genius loci della città di Monfalcone e ricollocarli all'interno di un disegno moderno. Questa è stata la sfida della progettazione. E se lei percorre la piazza capirà che alcuni elementi sono certamente elementi del moderno, però rimandano a degli elementi del passato e alla storia della città. Invece adesso siamo con l'architetto Morena. Quali sono queste novità? Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere innanzitutto, come è stato già detto dal mio collega, la traccia delle vecchie mura, che è un segno storico importante. Poi sono stati installati alcuni simboli storici della vita di Monfalcone, che è il leone alato veneziano e anche il pilo in cui durante il periodo austriaco si riunivano i cittadini di Monfalcone per chiacchierare. C'è anche tanto verde. Sì, il verde è quasi triplicato, quindi siamo passati da un piccolo parco di cittadina a un vero parco urbano. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente nazionale dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, sarà oggi a Udine per presentare il suo libro Antifascisti adesso perché non è ancora finita, in dialogo con lo scrittore Maurizio Mattiuzza. L'appuntamento è all'Hotel Executive alle 17.30. Domani Pagliarulo sarà a Saciletto di Ruda, dove alle 10.30 terrà l'orazione ufficiale alla commemorazione dei combattenti dell'Intendenza Montes e della GAP, fucilati dai fascisti nel febbraio 1945. Intendevo lanciare un allarme, cioè la domanda se o meno in questo momento ci sia questo pericolo. Ora, la risposta non può essere banalizzata. A me pare che questo pericolo ci sia. Naturalmente è un pericolo. Sarebbe sbagliato e propagandistico dire che oggi c'è un nuovo regime fascista. Si tratta però di un pericolo reale. Quando parliamo di fascismo, naturalmente non intendiamo un ritorno del fascismo del ventennio, intendiamo la possibilità che possa costruirsi un regime autoritario con tratti di discriminazione razziale, con un volto particolarmente violento. Questo pericolo c'è e quindi vanno scongiurati tutti i segnali che potrebbero portare in questa direzione. Ne dico uno fra i tanti: la violenza con cui è stata repressa la recente manifestazione di Pisa. È stato molto coraggioso il presidente Mattarella quando ha dichiarato che non si convincono gli studenti con i manganelli, ma ciò che mi ha colpito molto è la risposta molto dura al presidente di tanti rappresentanti del governo, in primo luogo da parte della presidenza del Consiglio, perché la Meloni ha affermato che non si toccano gli agenti. Infatti il problema non è quello degli agenti di polizia, ma di chi dà gli ordini, e non mi riferisco al commissario, mi riferisco alle prefetture e allo stesso ministro, perché è evidente che la vicenda di Pisa non è un fatto unico. Intendo con queste parole rappresentare l'esistenza del pericolo di una progressiva involuzione autoritaria che potrebbe portare, se le cose andassero molto male, a nuove forme di fascismo. Queste erano le parole di Gianfranco Pagliarulo. Ma ora passiamo al meteo. Cielo coperto sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 12,5 gradi, Gorizia e Pordenone 11,5 gradi, Udine 10,5 gradi, Tolmezzo 8 gradi, Tarvisio 6, Forni di Sopra 4,5 gradi, Piancavallo 2,5 gradi, Sappada 1 grado, Monte Zoncolan 0,5 gradi, Monte Lussari 0 gradi, Grado 12,5 gradi, Lignano 12. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Cielo da nuvoloso a coperto, saranno probabili piogge sparse, intermittenti, deboli o moderate. Quota neve oltre i 1200-1500 metri sulle zone alpine più interne, oltre i 1400-1700 metri sulle prealpi. Domani cielo da nuvoloso a coperto, in giornata dalla costa alle prealpi saranno probabili piogge sparse, intermittenti, in genere deboli, in estensione poi a tutte le zone dal pomeriggio sera. E ora parliamo di Giulio Coniglio, che ha finalmente potuto ritirare in posta la raccomandata con i disegni dei bambini di una scuola della Calabria. Nei giorni scorsi il personaggio disegnato da Anella Costa aveva qualche difficoltà con i documenti di riconoscimento. Piccoletta! Piccoletta! Ok, Ma però hai ritirato la lettera! La lettera in sospeso è finalmente arrivata nelle mani di Giulio Coniglio. A consegnargliela la sua creatrice, Nicoletta Costa, che ha potuto ritirarla dopo il diniego dei giorni scorsi da parte di Poste. Il rifiuto aveva provocato un piccolo caso che, complice al web, era rimbalzato in tutta Italia. A raccontare la vicenda sui social era stata proprio Costa. Martedì scorso era arrivata alle poste centrali di Trieste per ritirare una raccomandata per Giulio Coniglio, che però non le era stata consegnata perché, seppure l'indirizzo indicato fosse corretto, sulla busta figurava solo il nome del personaggio animato. A nulla era servito portare con sé i libri e un peluche di Giulio Coniglio per dimostrare il legame tra l'illustratrice e la sua creatura. La parte burocratica della vicenda si era risolta già lo stesso pomeriggio. In una nota, Poste aveva spiegato di aver agito nel rispetto delle regole e di aver contattato Costa concordando le modalità per il ritiro della raccomandata. Nicoletta Costa, illustratrice. Questa busta veniva dalla Calabria. La maestra effettivamente, sbadatamente, non ha messo il mio nome. Effettivamente, legalmente non si può ritirare se non c'è la delega e se non è una persona vera. Io amo scrivere lettere, amo ricevere lettere e vorrei che anche i bambini lo facessero. Io ho dei cassetti pieni di lettere che ogni tanto riguardo e sono una cosa magica che i bambini devono avere. I bambini sono prontissimi a fare questo gioco. Per evitare altri inconvenienti di questo tipo, il suggerimento ai tanti fan di Giulio Coniglio e della sua banda di amici è uno. Posta normale. Senza solo un francobollo, magari il francobollo di Giulio Coniglio. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle segnalazioni di un aumento della popolazione dei piccioni nel comune di Udine risponde l'assessore comunale al benessere animale Rosi Toffano, spiegando che l'amministrazione è da 15 anni impiegata nel monitoraggio del numero degli esemplari e in un loro controllo attraverso la distribuzione del mangime antifecondativo. In questo momento la situazione è ampiamente sotto controllo e conta circa 750 esemplari. La distribuzione del mangime avviene 5 giorni a settimana. A occuparsi dell'attività l'associazione Acquirenti. Le iniziative personali, sottolinea l'assessore Toffano, possono infatti vanificare gli sforzi e gli investimenti messi in campo per garantire il decoro e la salute pubblica. E andiamo a Pordenone, il quartiere di Torre, che si arricchisce di una nuova opera dipinta sui muri delle case con una particolarità. Questa volta si tratta di un murale tattile, fruibile anche dalle persone non vedenti. L'idea è quella un po' di creare un ponte tra la visione e la tattilità, di modo da creare un oggetto, un pezzo che sia fruibile da tutti. Un murale da vedere ma anche da toccare, fruibile da tutti. Il quartiere Torre a Pordenone si arricchisce di un'altra opera sui muri delle case. Dopo cani, barbagianni, farfalle, scoiattoli realizzati grazie al progetto Anima le vie, è la volta del primo murale tattile della città, dal titolo Alba, fruibile anche dalle persone non vedenti e realizzato dalle artiste Marcella Basso e Virna Colaone su iniziativa dell'Associazione Torre con il sostegno dell'Unione Ciechi e Ipovedenti. Virna Colaone, artista. Abbiamo pensato di costruire questo murale con 3 livelli, questo per aiutare la tattilità, quindi abbiamo lavorato con delle superfici, con dei marmorini, con diversi livelli di profondità, diciamo, per passare dalla parte visiva, che naturalmente non ha spessore, alle parti tattile gradualmente arrivando fino alle forme in argilla che sono totali. Giorgio Scanu, presidente Associazione Torre. Il progetto Anima le vie, di cui abbiamo già parlato tante volte, prevede la realizzazione di murales che hanno lo scopo di abbellire il quartiere di Torre, non solo, e di rendere quindi la bellezza fruibile a tutti i cittadini. Con questo murale in particolare vogliamo estendere la fruizione della bellezza anche alle persone meno fortunate, cioè gli ipovedenti. Il murale tattile è il primo del Nord Italia e siamo orgogliosi di aver avuto questa idea. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il 19 marzo del 1797, durante la campagna d'Italia e la conquista di Gradisca, i francesi con Napoleone Bonaparte si scontrarono con le truppe austriache in località Pra della Barca. A Villesse l'associazione Blaudins organizza una serie di iniziative per ricordare l'avvenimento. Oggi la posa della prima pietra del cippo dedicato allo scontro tra i due eserciti, dalle 14 in località Pra della Barca. Sono le 12.49, passiamo allo sport. L'Udinese ospita al Friuli la Salernitana, ultima in classifica. Fischio d'inizio alle 15, categorico vincere. Cioffi chiede ai suoi innanzitutto calma e concentrazione, perché sottovalutare una squadra che lotta per la salvezza può costare caro. A chi gli chiede se la sua panchina è salda, risponde che come ogni allenatore è consapevole di essere sotto esame a ogni partita, ma invoca anche il sostegno del pubblico. In Serie C la Triestina al Tognone affronterà il Legnago Salus, calcio d'inizio alle 18.30. Mister Roberto Bordin, che parte con Redan in panchina e Minnes, D'Urso e Ballarini ancora in recupero, è convinto che gli alabardati siano pronti ad affrontare una squadra imbattuta da 9 gare e che gioca con grande coraggio, approcciando molto bene e segnando spesso nelle fasi iniziali. Importante è vincere, aggiunge, perché abbiamo bisogno di 3 punti. Le qualità ci sono, adesso è fondamentale tornare a fare risultato pieno. Basket, in Serie A2 torna in campo l'Apu, che giocherà alle 19 sul parquet di Agrigento, squadra che combatte per la salvezza. La Gesteco in trasferta invece domani a Cremona contro la Juve, e la Pallacanestro Trieste sempre domani in trasferta a Latina. Basket femminile A2 per la Delser, che esce vittoriosa dallo scorso turno. Oggi sul parquet del Carnera arriva la seconda classificata, Roseto, palla 2 alle 19.45 con ingresso gratuito. Per Futurosa, trasferta impegnativa questa sera a Verona contro la terza in classifica Ecodem Lapo. Pallanuoto maschile, alla ripresa del campionato di A1, dopo quasi 3 mesi la Pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo dell'Ortigia Siracusa alle 15. Per gli alabardati in questa seconda parte di stagione c'è l'obbligo di recuperare posizioni e punti per centrare una complicata qualificazione alle semifinali scudetto. Nella massima serie femminile le orchette, davanti al pubblico di casa, si giocano la qualificazione alle Final Four per lo scudetto contro Rapallo. Il coach Zisa: non possiamo permetterci distrazioni. Pallamano Trieste questa sera alle 19 al Palachiarbola affronta il Cassano Magnago, una delle formazioni importanti del campionato, che si trova a 2 soli punti dalla zona playoff. Non possiamo permetterci di affidarci ai singoli, dice il team manager della Pallamano Visintin. Dobbiamo lavorare tutti assieme, partendo dalla difesa, per non ripetere gli errori commessi a Siracusa. E ancora pallavolo, in Serie A2 Tinet Prata ospita alle 20.30 al Pala Crisa Fulli di Pordenone e Ravenna, un match che potrebbe valere il sorpasso del Tinet Prata sui ravennati. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.